106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses. Hit it. Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. E buongiorno, buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla 40esima puntata di Fuoco alle Polveri. Ciao. Regia, dacci voce. Dacci voce a tutti, per favore. A tutti. Vedi, il nostro caro e amico Rico Baldo, che oggi ci sostiene fin dall'inizio. Non sono messo l'unico a parlare. Infatti io informo chi non mi sente cosa state dicendo. Il grande Rico Baldo è qui con noi ad aiutarci, anche Joao qui alla mia sinistra. Silenziati, perché c'è la censura su Radio Wombat, a quanto pare. Allora, ma hai provato a accendere il microfono, caro Rico Baldo? No. Il microfono che non si accende. Allora niente, prova a parlare. Ai. Mamma mia. Allora, comunque, 40 numero ricco. Quasi mi si ficco. No, parlerò da solo, allora, è un monologo fra me e me. Anzi, fra me e voi ascoltatori, numerosi ascoltatori. Quanti allora, ascoltatori? 40. Non lo so, mo guardo. No. Comunque, 40, allora, quello che ho scelto per collegarlo al numero 40 oggi è per forza Alibaba e i 40 ladroni. Certo. Per forza. Ma il 40 è un numero ricco di significati in. Dai, quelli lì che dice apriti sesamo, si apre la porta, c'è tutti i tesori. No, che quando ci interessa il 40, non che siano simpatici o meno. No, era per dire questa cosa qua. Era per dire questa cosa qua, che alla fine fanno a pezzi un monte di gente. Fanno a pezzi un monte di gente, erano ladroni comunque. E poi erano 40, un pochino. Sì, eccolo. Ecco, vedi, finalmente in ausilio. Dai. Ce l'abbiamo fatta. 40 allora, ladroni? Ti dicevo, Alibaba è 40 ladroni, aiuto. Perché siamo alla 40esima puntata in tutto ciò, sembra... Sì, la mezza età di Fuoco alle Polveri. Sembra ieri che abbiamo iniziato. Sembra ieri. Invece tra un po' sfa un anno, ragazzi. Tra un po' sfa un anno. Allora, 40 è molto ricco, vabbè, a parte per le citazioni bibliche, per cui la Bibbia è... un po' basata sul numero 40, ma non saremo. Perché poi? Non l'ho capito. Infatti, possiamo fare un appello a questo punto. Allora, facciamo un appello a tutti gli ecclesiastici. Ascoltatori di uomo di fede cristiano-cattolica. Ci possono venire in aiuto. Chissà se dirci... c'è qualcuno. Ma se me qualcuno. Magari qualcuno nascosto. Di sicuro. Qualcuno nascosto. Di sicuro. Comunque, per fare una confessione plurale, avevo letto anche che nella. Non so se secondo. Il Corano, però insomma i musulmani, raggiunta la mezza età, si rasano le ascelle ogni 40 giorni. E la mezza età è 40 anni. E la mezza età è 40 anni. Da 40 anni in poi. Comunque, 40. Una delle spiegazioni della Bibbia è anche che 40 era appunto anche insomma, ai tempi della scrittura della Bibbia. Quando ci fu quel fantastico scrittore fantasy e scrisse la Bibbia, 40 era la fine del ciclo vitale, quindi dice che alla fine più di 40 anni numero, non è che vivevi, è un numero simbolico, quindi è un numerone. Però comunque, quindi anche per i musulmani si può dire. Sì, ma che c'è periodi di purificazione venivano in diverse scritture sacre. Non c'entrano niente, tipo i 40 ladroni di Alibaba. Col Corano? Col Corano no, lo so, sono le mille e una notte, giusto? Bravo, che io sappia. Grazie. Beh, un applauso. Però no, boh, no. Detto, 40 ladroni, Un applauso per chi, scusami? Allora. Il nome? Alibaba. Presentati. Io sono Cab. Ciao, sono in regia e è per questo che ci sono stati così tanti problemi. Non è vero, non è vero. Non dipende da te, ma dal fato. Problemi comunque, tecnici. Chiudo questo 40 che ci sta un po' tediando, perché nella smorfia il numero 40 è associato alla noia. Ragazzi, esatto. E forse è alla noia che stiamo appunto dando ai nostri ascoltatori. Abbiamo bisogno di un pezzo per mandare via questa noia. Dai, ci proviamo. Cosa ci mandi, caro? Allora, abbiamo detto? Sì, Cab. Per una volta scelgo io. No, Patrick Wolf, Blood Beat. Bel pezzo. Wow. Dai. Black tonight. light to the unknown. I want this night inside of me. I want to feel, I want this feeling. I want that feeling. My blood beats black tonight. My blood beats black tonight. My blood beats black tonight. My blood beats black. Ho, ho. Rieccoci qua. Ho dato io l'energia. Ci sei. Gran pezzo di sottofondo, grazie regia. Allora, rieccoci qua. Rieccoci, sì, amico. Caro. Cosa facciamo oggi? Cosa facciamo oggi? Siamo qua, siamo in diversi, ci divertiamo tanto. E un po' di rubriche. Ci alterneremo ogni settimana a sentire te. A volte ogni settimana sentirete una rubrica diversa, a volte sempre le solite, insomma, ci alteniamo un po', non siamo regolari su niente. Mai. E mai. E musica, letture, cose nuove, mascalzone, queste cose qui. E... è fra i topic della puntata. È fra i topic. Mascalzone. Sì, sei te, caro, e cioè, il nostro secondo regista. Ma a volte le cose ritornano. A volte ritornano. Tipo? Tipo? Non lo so, le rubriche sono tipo le rubriche. Cicliche, dai. Cicliche. Su. Cicliche come la bicicletta. Per l'appunto. Volevi boccare, noi ancora ti volevamo dare parola, ma se proprio vuoi. Veramente proprio. Beh, giusto, sì. Se l'è presa. Facciamo partire sigla. La sigla. Me la prendi. Sigla! No, sono depresso. Come sei depresso? Dai che andiamo! No, sono depresso, sono giù sui PC, sono un altro. La faccio finita. È meglio sparire. Allora, e poi io mi ti immagino sulla bici con questa musica. Allora, sì, ragazzi, ma poi si dice rubiamo una bici. Rubiamo le bici. Bene, non è la sigla, questo è il sottofondo. Prima era manzina presa dal regista. Allora, sigla! Aspetta, si fa chiusura. No, è nuova. Vabbè, me la sentirete a chiusura. Ma non l'ho mai sentita. No, non è stata ancora mai sentita. È nuova, è proprio la. È nascosta. E allora sappi che non era tra i file che mi hai dato. No, ce lo dovrei avere, ci ho detto. Nulla, ragazzi. Comunque, la rubrica va avanti anche senza la sigla, grazie a Dio. E. Va bene, scegliamo. Non c'è problema. La sigla è solamente. Allora, sentite, cosa ci racconti oggi? Cosa vi racconto? Allora, intanto vi volevo raccontare un bel po' di cosette. Però partendo dal punto dove eravamo rimasti la volta scorsa. Un paio di settimane fa avevamo introdotto brevemente l'evento che si è svolto giovedì scorso, il 26. Già. La Critical Mass era una Critical Mass, diciamo, particolare, perché veniva dopo alla campagna anticiclisti messa in atto dalla Nazione, dai nostri amici della Nazione, e quindi la Critical Mass, che è un evento, una manifestazione di protesta, io pensavo che si indirizzasse minacciosa verso la Nazione, invece così non è stato. Comunque, piccola introduzione alla Critical Mass, perché okay, forse merita di essere spiegata, visto che l'abbiamo messa in bocca per diverse volte, ma mai, ecco, spiegando per benino. Dunque, intanto si diceva una coincidenza organizzata. Bene, il concetto qual è? Il concetto è stato estrapolato da un documentario, va bene, che si chiama Il ritorno del ciclista veloce, in inglese si chiama The Return of the Scorcher, di Tom White, che è un documentario del 1992, e in un fotogramma, insomma, a un certo punto mostra in una grande città cinese, va bene, della grande Cina, dove naturalmente, cioè, figurate, macchine, motorini, un delirio, un bordello, nessuno rispetta niente, ognuno fa quello che vuole, e si vede appunto un ciclista che cerca di attraversare questa bolgia, e naturalmente non ci riesce, non c'è verso, si trova un muro che si muove di fronte, e quindi di conseguenza deve aspettare. Aspetta, quindi da 1 diventano 2, diventano 3, diventano 4, diventano 5, diventano una massa critica, e appunto per massa critica si intende quella quantità di ciclisti in grado di in un certo senso scalzare dalla strada, cioè riuscire a dettare legge, va bene? Quindi quando i ciclisti sono una massa grossa riescono anche a attraversare un incrocio veramente impossibile, perché in un certo senso si impongono. Quindi questo è quello che si propone di fare la Critical Mass, un appuntamento una coincidenza organizzata, quindi c'è un appuntamento solitamente mensile in tutte le città, in molte città. A quell'ora si ritrovano i ciclisti urbani e insieme partono per questa manifestazione, che fondamentalmente non ha regole, va bene? Non ha un capo, non ha bandiere, non ha un percorso. Il percorso viene scelto da chi sta in cima. Se te vuoi stare in cima e decidere, stai in cima e decidi. Ecco, no, tendenzialmente sì, vabbè, ora si muove molto piano, molto lentamente, poi devi stare molto attento, perché comunque sei nelle strade e c'è il pericolo che si infilino, no, cioè, spesso si incazzano tantissimo, cioè è una cosa che fa veramente incazzare gli automobilisti. Sì, e quindi a volte è un po' pericoloso, e quindi c'è tutta una serie di accortezze da seguire, che sta da rimanere compatti, quindi rimanere compatti nella strada, rimanere compatti ai semafori, quando ci si ferma un semaforo fermarsi tutti, quando non ci si ferma un semaforo non fermarsi nessuno, perché altrimenti il gruppo si divide, sempre andare a bloccare le macchine che cercano di infilarsi dalle strade traverse e i motorini, e anche contenere appunto a volte la rabbia degli automobilisti, che c'è da dire che è notevole in alcuni casi davvero c'è chi cerca di menare, va bene? E, allora, questa di giovedì scorso era il 15° anniversario della Critical Mass a Firenze, va bene? La Critical Mass è nata nel 92, appunto, in seguito all'uscita di questo documentario e appunto all'idea di alcune persone di veramente di metterla su, ecco. E, anzi, siamo 25 anni fa, perché era il 25 settembre 1992 quando si è svolta la prima Critical a Los Angeles. E erano circa 40, erano 48 ciclisti alla prima Critical del mondo, pensa un po'. Poi dopo piano piano sono il aumentati. Il 40 che torna. Il 40, sì. E fino appunto loro sostengono che a Los Angeles ha portato le biciclette ancora non erano in voga prima della Critical Mass. Loro sostengono di aver incrementato l'utilizzo della bicicletta del 700%. Pensate un po', però questo poi, insomma, bisogna vedere da che numero partono. Da 48, sì, del 700%, no, è comunque il 700%, quindi sono settuplicati. Ok, quindi quella di giovedì era particolare, no? Era il quindicennale della Critical a Firenze, quindi c'è stato questo percorso assolutamente casuale che è terminato al CPA, con una cena fantastica, organizzata cucinata dai nostri amici e poi un concerto del insomma Irish folk. È stato veramente carino, è una serata molto conviviale, direi, assolutamente. E con l'occasione hanno inaugurato al CPA una ciclofficina, una vecchia ciclofficina, vecchia perché era aperta fino a anni fa, poi è stata per un bel periodo chiusa e adesso da quest'estate è stata riaperta da un gruppo di appassionati che fra l'altro sono anche fra i promotori della Critical Mass e hanno aperto questa stanza. Dal nome Brugola Rossa. Sì, non male. È una stanza al primo piano del CPA, molto ben attrezzata, ha un sacco di pezzi di recupero e un sacco di pezzi, veramente di tutto, dai telai alle ruote, a tutti i meccanismi, agli attrezzi. Sono veramente, veramente ottimo. Implicito l'invito a portare le biciclette. L'invito è implicito, andate, è aperto il mercoledì pomeriggio, dalle 4:30 in poi, tutti i mercoledì pomeriggio troverete dentro i meccanici, va bene? Una ciclofficina significa che non si limitano a aggiustarti la bici, bensì loro ti insegnano a aggiustarti la tua bicicletta, quindi nel senso si presume che tu poi, nel senso, andando via via, il problema di aggiustare la bicicletta molto spesso sono gli attrezzi e i pezzi di ricambio, perché un singolo da sé, se si dovesse comprare gli attrezzi per una ciclofficina, è una cosa un po' dispendiosa. Appunto a Firenze ci sono alcune cell'officina, questa qui è l'ultima che è stata aperta e io vi consiglio di passarci, sono molto bravi, fra l'altro il meccanico è anche un meccanico professionista, cioè lo fa anche di lavoro, non alla Brugola Rossa ma in una sua cell'officina e insomma ragazzi è un'occasione. Condivisione di strumenti e conoscenze. E conoscenze. Senti, ma quali sono le altre ciclofficine? Allora, le altre ciclofficine simili, esatto, sì, direi simili, perché una nasce in un centro sociale, è quella di Viale Corsica, Viale Corsica 81, e anche quella è aperta il mercoledì pomeriggio, dalle 4:30 fino alla sera. E la terza ciclofficina invece situata in via Faentina vicino al Ponte Rosso è all'interno dell'associazione Fare Spazio, invece loro aprono due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle 4:30 alle 7:00 e anche lì devo dire che la Brugola Rossa e Fare Spazio sono veramente ben attrezzate. La Viale Corsica anche stanno ancora finendo di metterla su. Però insomma ci sono sempre persone molto competenti che vi aspettano. Ragazzi, io direi di mandare un pezzo. Va bene. Poi ci ribecchiamo dopo. Evviva. Vai. Ciao. Red Hot Chili Peppers. Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. Are gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention a bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. happy days but sad of face, and heaven knows I'm on the case, so how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it first, the beauty of your verse. A sticky finger and a wicked taste, got a lot of nerve and a lyrical case, be sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Make it up, making you my business. A funny buttercup, gotta live a forgiveness. Happy days, but sad of face, and heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your verse. My girl, I heard it. Super scelta Red Hot Chili Peppers. Aveva un significato? Sì, The Bicycle Song. Bravo. Sono loro che esortano. Sono anche loro dei ciclisti urbani. Sì, eh? Sì, immagino. Sì, sì, tutto sì, flare. Sì, sì. Sì. E, bene. Niente, cosa sulle Radical Mass non saprei. Io vi dico di partecipare a una cosa, secondo me, curiosa. Io... personalmente mi sono trovato ogni tanto in difficoltà, proprio perché succede che davvero ci siano dei momenti di rabbia, veramente, cioè qualcuno non reagisce bene, mettiamola così. Ma tipo? Allora, tipo, guarda, allora, ad esempio, allora, una delle cose che più dà fastidio è il fatto che i ciclisti blocchino le strade trasversali che entrano nel percorso della Critical Mass. Questa cosa, cioè, uno si piazza con la bicicletta davanti alle macchine che stanno per entrare e le blocca, di fatto. Uno, due, tre, quattro. Cioè, allora, dipende. Ci sono varie reazioni. C'è chi chiede... uno dei principi della Critical Mass è questo, nel senso, non farsi troppi problemi, perché potenzialmente ogni automobilista può essere un ciclista, può, certo, potenzialmente essere un ciclista. E di fatto questa cosa succede, è vero, ci sono persone che chiedono: ma chi siete, ma cosa fate? Alcune persone dicono: ah, va bene, ci si vede il mese prossimo, vengo con voi. Altri si incazzano come delle bestie, cioè una signora ha quasi ammazzato qualcuno l'altra sera, per dire. Però boh, è una cosa nel che... nel senso che parte con la macchina. Sì, sì, nel senso che qualcuno... cioè, esatto, magari cerca di mettere sotto, cerca di far paura. Poi naturalmente rischia il linciaggio, perché è in mezzo a 200 persone che la pensano esattamente... no, cioè, pensa a roti qualcuno. Capito, insomma. Però ecco, sono situazioni che non succede niente di grave, però possono infastidire. Ecco, io non rimango indifferente a questa cosa qua, sicuramente. E, però... non lo so, è una cosa che secondo me è curiosa, ecco, sì, è curiosa, può valer la pena di provare a fare. E appunto si pone un po' l'obiettivo di sensibilizzare, no? sia la comunità che anche le istituzioni. A volte ci riesce, a volte no. Sappiamo che Firenze è una insomma, come sono degli zucconi a Firenze, no, non transigono, non è che vogliono, non si lasciano convincere molto su sotto questo aspetto. Infatti si era già detto della polemica insomma, di questo mese, di questo inizio mese verso i ciclisti indisciplinati. Io riguardo a questo appunto avevo già introdotto il libro di Marc Auger che portava, diciamo, una visione antropologica dell'uso della bicicletta e divideva l'utilizzo del mezzo in due sezioni, la parte del mito e la parte dell'utopia. La parte del mito avevamo visto che era un po' quella che ognuno di noi si porta dentro fin da quando ha imparato ad andare in bicicletta. La parte dell'utopia riguardava appunto proprio la ciclabilità urbana e lui, no, non ve l'ho letto, ma inizia questo capitolo raccontando il suo sogno, va bene, raccontando il suo sogno, lui è francese e abita a Parigi, e raccontava il suo sogno di una Parigi completamente ciclabile, dove le macchine stavano tutte al di fuori della città, stipate in questi grandissimi parcheggi verticali, queste torri parcheggio ai limiti della città, dove i cittadini avrebbero dovuto lasciare l'automobile per poi recarsi in città con altri mezzi alternativi, diciamo, lasciando naturalmente una piccola opportunità a chi non può fare altrimenti. Quindi lui nel suo sogno c'era l'idea di lasciare tipo 3 o 4 accessi esclusivamente per le automobili, comunque a termine, va bene, quindi che poi sarebbero andati a sparire. Questa cosa naturalmente non voglio fare una polemica, vai, no. Però per esempio le persone non possono andare sulla bicicletta perché magari manca una gamba. Esatto. Beh, esistono bici. È un casino. No, esistono le bici o le giri pedale o le. Esatto. Macchine. E infatti, nel senso. Però. Certo, Marc Auger lo. Di una macchina costa anche la bici a pedale a braccio. Sì. Infatti, nel senso, Marc Auger questa qui lo reputa un'utopia, no? Una cosa che sa, un sogno, una cosa bellissima. Beh, devo dire. Se non che, però. Io, scartabellando un po' su internet, ho trovato il caso di Oslo. Oslo è la capitale della Norvegia e c'è una sindaca socialista che nel 2015 ha fatto questa dichiarazione che ha stupito veramente tutti, cittadinanza e non, appunto dicendo che Oslo sarebbe stata la prima città europea a bandire, a vietare le auto completamente nel centro città, cioè non il traffico nel centro della città, ma le auto, cioè non voleva più che gli spazi fossero occupati dalle auto, gli spazi che invece loro reputano che dovrebbero essere dedicati alla socialità e all'incontro delle persone, a restituirle insomma alla cittadinanza, sono occupati dalle auto, e lei quindi se n'è partita così dal 2015, ha detto noi entro 4 anni si fanno sparire tutte, al che, cioè, figurati, cioè, è venuto fuori un putiferio, cioè, i commercianti si sono incazzati tantissimo. I commercianti, soprattutto quelli normali e i partiti di opposizione. I commercianti di auto è un po' particolare perché Oslo, fra l'altro, è la città con la più grande percentuale di automobili elettriche. Va bene? Quindi, questo era di fatto è stato un altro ostacolo per la sindaca, perché lei, oltre a restituire le aree, voleva anche far sì che diminuisse molto l'inquinamento, l'emissione di CO2, che secondo le loro statistiche sono tipo per il 40% dovute al traffico urbano privato. Bene, quindi lei cosa ha detto? Bene, basta, non entra più nessuno, si sono incazzati tutti, gliel'hanno un po' affossato di fatto questo progetto, al che lei ha deciso, lei e la sua nell'amministrazione hanno deciso di cambiare strategia, quindi anziché non far entrare le auto nel centro, hanno detto bene, voi ci entrate, entrateci pure, ma io vi tolgo i parcheggi, e ha iniziato, diciamo, gradualmente, ritenendo la popolazione non ancora pronta, ha gradualmente attuato, tipo nel 2017 verranno tolti 600 posteggi all'interno della zona più centrale, per poi estendere all'immediate, insomma, circondario, poi appunto al posto dei parcheggi la costruzione di piste ciclabili, di giardini, di panchine, di luoghi di incontro, e naturalmente il potenziamento di tutta l'attività, di tutto il traffico, diciamo, non pubblico, esattamente. Beh, certo. E la risposta? Allora, la risposta appunto, cioè, la risposta è alla, chissà vedremo perché di fatto appunto è iniziato nel 2017 e ancora non ci sono dei veri riscontri in questo. Pare che i commercianti non siano più così scontenti, perché laddove passava il traffico adesso passano le persone a piedi, e quindi se loro loro concepivano un po' la loro attività di commercio, loro dicevano: guardate, ma noi le persone vengono solamente, cioè si fermano, vengono a comprare da noi solamente se è comodo venire a comprare da noi, non certo se è scomodo. E invece sembra che si stiano rendendo conto che camminare nelle strade addirittura stimola le persone a interessarsi anche a ciò che sta nelle vetrine, e quindi anche in un certo senso potrebbe non essere così gravoso per il commercio locale. Come volevo dire prima, pensare a una città senza macchine è strano. Cioè, capisco il disappunto. Esatto, perché appunto a Venezia invece è una città senza macchine. Sei la prima volta che arrivi lì, sei un attimo frastornato dall'assenza di... Sì, compenso c'è una quantità di barche. C'è una c'è il traffico di barche. Ci fanno passare anche le navi da crociera. Sì. Infatti non volevo dire che oscurano il sole comunque. Quello oscurano il sole. Sì, c'era una mostra fotografica molto bella su questo di... un fotografo famoso di cui ovviamente non ricordo il nome. Però tra l'altro appunto anche piano della città dei comitati cittadini no grandi navi che si oppone lotta contro la presenza di grandi navi, ma al di là di questo, che potrebbero essere questi grandi automobili per loro, è una città effettivamente, come dicevi te, in cui ci si scorda l'esistenza delle auto, e quando ritorni poi lì sul ponte per tornare verso Mestre e poi per tornare a casa. Esatto. E io tutte le volte rimango un attimo a dire: ma io voglio rimanere qua, voglio morire qua, grazie. Sì, ora poi naturalmente ha dei problemi che sono grossi, ecco, no, dicevo, il fatto in una città senza auto, una città con le strade, non con i canali, senza auto, ha dei problemi, come te prima facevi notare, e loro Oslo hanno pensato di risolverla. Intanto, c'è un bike sharing, come qui a Firenze. Hanno pensato anche, per esempio, per chi sta un pochino più lontano, chi sta in collina, di finanziare delle biciclette elettriche. E poi appunto anche il trasporto, il trasporto minuto all'interno della città, di utilizzare rickshaw e aggeggini elettrici, sì, e quindi far sì che, ecco, anche da, insomma, le auto, sì, loro sostengono che rendono la città poco vivibile e troppo stressante. Che cosa? Le auto? Le auto, il traffico, certo, di auto. Devo dire che auto, le bici elettriche, in effetti... per esperienza diretta, anche se stai in collina o in montagna, aiutano ce la fai. Baia, ragazzi. Sì, perché ti aiuta nel pedalare, cioè ti dà molto la famosa pedalata assistita. Esatto, famosissima. Esatto. Però effettivamente è una soluzione, nel senso. Sì, l'elettricità, poi, tu devi mettere in conto un'altra cosa: la bici presuppone più tempo a volte, no? Dipende, dunque dipende. No, io parlo per fuori della città. Ah, per fuori della città. Dentro la città c'è il traffico, chiaro. Dunque, è stato gli specialisti sostengono che nei tratti urbani al di sotto dei 10 km la bicicletta sia più veloce della macchina. Naturalmente nei tratti extraurbani, cioè, non c'è paragone. Però ecco, sotto i 10 km nella urbe, okay, sì. È interessante sapere questa cosa. troppe cose. E vi lascio con una perla, perché ho scoperto una cosa pazzesca. Bisognerebbe suggerirle a Nardella. Nardella mi dovrebbe ascoltare. Caro Nardella, facciamo così: ti faccio un annuncio. In Islanda, esattamente nel paese di Ísafjörður, che ti è andata anche bene. L'ho detto sicuramente malissimo. Hanno troppe vocali per essere credibile. In Islanda hanno il problema della gente che va forte in macchina, va bene? In Islanda sono tipo 300.000 abitanti, una cosa del genere, su un'estensione enorme. Non c'è nessuno a giro, quindi vanno a 2.000. Però questo di fatto è un problema. Non sapevano come cazzo fare a farle rallentare. E in questo piccolo paesino, spettutissimo, hanno introdotto delle strisce pedonali disegnate in tre dimensioni. Sono una cosa pazzesca. Cioè, quando arrivi ti sembra che siano... che escano, che ti sembra che queste strisce fluttino nell'aria. secondo me è pericolosissimo. Ma se, cioè, a me viene il dubbio, è una cosa che magari funziona la prima volta e la vedi e non te l'aspetti. E poi fai un incidente. Poi, esatto. Fai un incidente, ma fai un tamponamento. Non c'è nessuno sulle strade islandesi. Dalla però... seconda volta lo sai, fai boh. Cioè, è come l'autovelox che rallenti quando perché... appena prima e poi riparti. Alcuni sono disegnati in 3D, non c'è neanche bisogno alcuni di rallentare. No. Alcuni sono dissuasori immobili. Vabbè, queste sono le concezioni, però per dire al nostro amico Nardella che nel senso le soluzioni vanno cercate, bisogna utilizzare l'ognegnaro. Ecco. Come è messa la rete di pista ciclabile a Firenze? Allora, la rete di pista ciclabile a Firenze, la prossima puntata vi voglio pubblicare anche la foto, cioè la mappa della rete ciclabile. Sono circa un novantino di chilometri, il che non sono di fatto pochissimi. Il problema è che molto spesso sono veramente frazionate, cioè da Morgagni, per esempio, che ne so, Viale Morgagni c'è una pista che lo percorre tutto, sarà un chilometro di pista, però nel senso inizia e finisce in Morgagni, poi te o fai in su e in giù lì, oppure nel senso... Prima. Non puoi arrivare in centro senza sono cazzi tuoi, insomma, sì. Va bene, questo ti dico, il percorso che circonvalla i viali, ci sono altri collegamenti, non è messa granché, però insomma tendenzialmente non è proprio. Allora, prima quindi di sentenziare, migliorare queste migliorare Nardella, non lo so Nardellone, cioè, se ne fa già vanto del fatto che Firenze è piena di piste ciclabili, sì, peccato che la metà siano a uso contemporaneo con i pedoni. Chiamare piste ciclabili mi sembra proprio parolone. Sì, è un po' pericoloso questa cosa, fra l'altro. Cioè, insomma, sì, oltretutto. Oltretutto, non tutela proprio al massimo. Nessuno dei due. Bene, quindi le bici dilagheranno per la città, come allora, stai dilagando te da ormai... le bici dilagheranno. Tre quarti d'ora. troppo, mi fermo, sto zitto. Dilagheranno, sì, non lo so. Ormai ci accaniamo. Non lo so, le bici... Calma, in realtà, è colpa. Non lo so, io non ci vedo molto spazio, devo essere sincero. Lo spero... Sono un po' pessimista, sì, perché non mi sembra che di fatto ci sia la volontà. E quindi se non c'è la volontà... sono naturalmente cose. Tutti a Oslo, ragazzi. Tutti a Oslo. O a Venezia. Che comunque le bici sono impossibili. Ammazzano. Fa un pedalò. È vietato usare. Comunque a Venezia, appunto, è la città in cui è vietato usare le macchine. È vietato anche usare le biciclette. Ma anche c'è tutti, ragazzi, i ponti, tutte scale. Rimane vietato. Sì, comunque si vieta, infatti. Vabbè. Un pedalò. Forse adesso abbiamo anche la sigla per salutare. Sigla. Finalmente possiamo salutarci con la sigla in chiusura. Per poi avere un'altra sigla in apertura, così a bomba. Sì, andiamo, dai, che ce ne vai. Via. Ciao ragazzi. Ciao Baldo. Grazie. In punta di pedale. Eccola. Minimale, ma è meravigliosa. Bellissimo. Nozioni inutili. Rubrica raffica. Rubrica raffica. Ciao, ciao a tutti quanti, buonasera. Siamo arrivati alla quinta puntata. Alla quinta puntata di Nozioni Inutili, rubrica esclusiva di Radio Wombat, quindi non potete collegarvi, che ne so, a RDS e sentire Nozioni Inutili, no, la sentite su Fuoco alle Polveri. Buonasera a tutti quanti, abbiamo parlato di diversi argomenti, abbiamo parlato delle ragazze di Vivian, delle termiti suicide, abbiamo parlato del primo suono mai registrato. Il suicidio forse era il mio preferito. Sì, le neocapiterme starà qua, erano bellissime. Poi anche delle bombe gay. Che hanno dato la copertina allo scorso podcast. Non so se hai notato. Sì, assolutamente, bellissimo. Con l'esplosione atomica arcobaleno, ci è piaciuta molto. Questa volta parliamo di viaggi nello spazio, o meglio di tentati viaggi nello spazio, perché non lo so, voi magari vi state facendo la permanente dal parrucchiere e improvvisamente vi chiedete: ma qualcuno prima di Yuri Gagarin ha mai tentato di andare nello spazio? La risposta è sì. Negli anni 50 c'è stato un ufficiale americano che ha condotto un test, e si parla comunque di anni in cui il Dipartimento della Difesa americano assolutamente rigettava l'idea di fare un programma spaziale perché era considerato inutile, costoso, e quindi questo ufficiale americano, che invece voleva andare nello spazio, ha effettuato un test segreto nel deserto del Nevada. Si è lanciato da questa, praticamente una sorta di sedia con dei razzi sotto per sostenerla, e poi si è gettato dalla stratosfera. Non è arrivato nello spazio, ma quasi, e ha fatto praticamente il record, che poi è stato battuto da Felix Baumgartner, quando sia di altitudine nella caduta libera che nella velocità di quota, quasi rischiava di farsi esplodere una mano, perché durante l'ascesa il guanto si è strappato. Cioè, proprio il filmato è una roba che ti mette veramente un'ansia incredibile. Ma in realtà c'è anche una storia più antica. Una storia antica che probabilmente non è vera, è apocrifa, ma a me piace pensare che sia vera. Perché c'è questa storia di questo generale cinese, tale Wan Hu, come mi piace chiamarlo, che nel 1600 pare volesse raggiungere la Luna. E quindi si è fatto sistemare dai suoi servitori una bella sedia con dei fuochi d'artificio legati sotto, ci si è seduto sopra e poi hanno acceso i fuochi d'artificio, lui è partito, è esploso in aria e non si è più visto. Ma noi ci... perché è arrivato sulla Luna? Bravo. Perché noi... Ma è ancora lì? Noi ci piace immaginare che sia sulla Luna. In realtà questa storia pare che sia una storia apocrifa, in quanto vari elementi, sia dal punto di vista delle illustrazioni del generale, non erano ancora così violenti e grafici nelle illustrazioni. Comunque sì, pare che appunto questa storia, per vari dettagli, non sia una storia reale, ma sia stata inventata a inizio Novecento per destare curiosità. Ma nonostante ciò, i cinesi hanno intitolato un cratere scoperto da loro sul lato oscuro della Luna a Wan Hu. Il cratere Wan Hu, appunto. Per onorare Wan Hu, conquisteranno la Luna a questo punto. Sì, quasi sicuramente. Poi, insomma, c'è da tenere d'occhio questi cinesi che si stanno espandendo. Luna socialista. Cioè, già così. Bandiera rossa sul lato oscuro. E quindi, visto che c'è Wan Hu, visto che c'è Hu, dalla regia, perché vedo che la regia è prontissima, preparatissima, mi manda un pezzo che fa Huh! Sit in the dark and ponder how one fit to make the bottom fall to the floor, and they all fall down. It goes. Out of the shadows, barrage of witch tongue, culprits spit over apocalyptic cult, kill a cauldron, smoke, stop music, seriously. It goes. Can't stop this groove, looks stars clear off them locks, relentless rob movement for the knock, meter that G-spot body rock, connect it. Damn, everything you want, ever did want, we got it, why not come get it again in that hole and watch me drop this cold guillotine death sentence. Yeah. It goes. Hidden all between and beneath, every fragmented figure of speech, talking reverse whenever the beat causes my jaws to call. The screen's flashing red, can't see shit ahead. Spinning exorcists like planets, out of orbit off the edge of my nexus, ripping the doors to far more than all that's ever been said. Tie the cord, kick the chair and you're dead. It goes. Trick in a bucket, body of a trick in a bag, and thrown in the fire like fuck it, gotta burn it before it goes bad. Too many times been disgusted by the stench of riding such a drag. Get broke by the street like bloodstained glass. Choke on these nuts to the very last. It goes. Serial number, killing machine, fearless domains, doing that build on the filthy sound you're experiencing. It goes. proof. This Slipknot fixing rope to noose to the gravestone grinder of cold steel. The bass in the blinds we saw our fields. Yeah. They go to and flows through our veins, blows through our tunnels and rattles our chains. And they all fall down. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Rieccoci qua. Eccolo. Questi erano i Death Grips con Guillotine, per la gioia della regia. Che è supposta gloria, gioia della regia, immagino. Vabbè, io devo dire, no, ho apprezzato. Comunque, per chi non conoscesse i Death Grips, sono un gruppo fondato da Zach Hill con MC Ride alla voce. E fanno questa sorta di industrial noise rap. E quindi è molto interessante. E niente, tra l'altro, dietro a questa canzone per un secondo io ho sentito la sigla del prossimo programma che si è innestata. Sì, l'hai sentita? Cioè, sì, una sigla bellissima che io adoro tutte le volte, nonostante l'argomento non mi interessi minimamente. Sei partiti? Ah no. No, questa era un altro pezzo di Death Grips che è partito a caso, YouTube, esatto. E adesso c'è la prossima rubrica che... Ora la annunciamo, ma la tua rubrica è finita? È finita, non sono inutili. Col botto, col botto come One Who. Col botto, perfetto. Giusto. A questo punto ci sentiamo la settimana prossima. Spero, cerca di non mollare mai perché siamo estremamente contenti. Sempre contento di essere qui con voi, vi ringrazio. E adesso passiamo alla prossima rubrica. Qua non ci si ferma mai. In realtà, vai. Non ci si ferma mai, sempre. Un'altra esplosione, un'esplosione di motori. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Pronti? Sì, capitano. Pronti? Los geht's. Schumacher. E brom brom brom brom brom brom. Veramente solo tutta la rubrica è... Giovani piloti crescono. Giovani piloti crescono. Perché giovani piloti crescono? Perché parliamo di giovani Bottas. Piloti che crescono? No, Bottas ormai è sul viale del tramonto. Ne sta buscando sonoramente da Hamilton. C'è dubbio sulla sua permanenza in Mercedes. Sono pronto a tutto. Attenzione, ogni nome che mi dite si apre. C'è stato e potrebbe essere successo qualcosa di clamoroso. Tipo Hamilton potrebbe aver vinto il campionato mondiale. Gli bastava arrivare quinto. Hamilton partiva terzo, Vettel primo. Ma io non l'ho visto, amici. Scusa, ma quanto manca alla fine? E sono venuto e brom! E ci sono lo stesso. È il migliore. Senti, ma è a fine il campionato? No, però mancano 5 gare. Manca poco. La Ferrari ha passato. La Ferrari se l'è passata un pochino male ultimamente. Ha passato la fase asiatica dopo essere stata nel continente americano, dove ne ha buscate sonoramente, grandi ritiri, Mercedes ha vinto sempre. È praticamente finita, Hamilton basta un quinto posto in una delle qualunque prossime gare e Vettel deve vincere sempre, se no è chiusa. Qualcuno gli dia una bidonata. Sì, lo vorrebbero anche fare, che parte sempre davanti, poi quello lì è un po' duro. No, però. No, lì è tutto finito, è tutto finito. Hai rovinato. Va bene, sono molto triste adesso. Vabbè, hai appena rovinato la vita di una persona. Sono molto, molto triste. Pare, c'è ancora la possibilità. Ridi, pagliaccio, ridi. Io vado avanti lo stesso. Ridi, pagliaccio. Giovani piloti crescono. Di cosa vogliamo parlare oggi? Di giovani piloti. Mentre. No, concentriamoci, attenzione. Allora, Hamilton ha vinto il mondiale. Un annuncio in diretta su Radio Wombat. L'esclusiva. Siamo i primi probabilmente a siamo, i primi, siamo i primi, siamo i primi. Abbiamo anche un'intervista. No, ma sono successi problemi, non dipende tanto da me, comunque. Cioè, il fatto che non l'abbia visto. Io ero pronto, alle 8 mi ero attaccato a Firenze Wi-Fi, ho provato con l'app di Rayplay a vedere in diretta. E niente, è saltata ben due volte. È colpa di Firenze Wi-Fi. Ecco, anche di Rayplay, perché poi la sera io volevo vedere la replica. Su Rayplay non c'era... Su Roya Directa c'erano i torrent, però andavano lenti, l'ho finito di scaricare stanotte. L'avrei dovuto guardare oggi, ma ho fatto tante cose oggi, non ho avuto tempo. È andato un po' così. Va bene, ma chi è quel che cresce? Deve succedere, succedere. Allora, chi cresce? Cresce quello che mi piaceva a me, ve l'avevo detto un po' di tempo fa. Il giovane Charles Leclerc. No, ma lui è scascio, lui solo perché si chiama Schumacher, gli hanno fatto guidare il Benetton, ma non è un buon pilota. Lasciamolo stare. Ci sono il nostro italiano Giovinazzi e un adottato della Ferrari, uno che fa parte del Ferrari Junior Academy, che è Charles Leclerc, che ha trovato posto l'anno prossimo in Sauber. Quindi ci sarà questo giovane pilota che mi piace tantissimo a me. Classe 97, ottimo, ottimo. Speriamo di vederlo presto, insomma, che cosa ci può dare. Noi però non parliamo di loro, che l'anno prossimo saranno i rookie della nuova stagione, bensì parliamo di due giovanissimi piloti che io consiglio possano essere attenzionati dalle scuderie per il prossimo anno. Ok, se siete in ascolto... È un consiglio questo. Sì, vorrei una base un po' più incisiva, gentilmente. Eccola lì. Come disse il dentista. Allora, siamo in America. A proposito di America, comunque... No, è un attimo, parentesi, devo fare una parentesi. Brom, è vero, era il momento giusto. Crescendo. Allora, in America è successo che hanno fatto il penultimo Gran Premio. Quello scorso è stato in Messico, quello penultimo l'hanno fatto negli USA. E hanno fatto una tamarrata gigante alla Super Bowl. No, quella è in Inghilterra. Ad Austin, Texas. E in Austin, Texas hanno fatto questa tamarrata gigante con questa presentazione a Super Bowl. Maxi schermo, i piloti annunciati con un video, arrivavano fra gli scoppi, tipo dei fuochi d'artificio, e si presentavano uno dopo l'altro. Una tamarrata enorme, un'americanata pazzesca. Stava tutto un tripudio di feste, eventi laterali, cose giga. E le reazioni nel paddock, cioè insomma, diciamo, nel mondo della Formula 1, sono state variegate. Fra chi come Hamilton e Raikkonen ha detto: ma che cazzo è sta roba? A chi come Hamilton ha detto: è la cosa più bella del mondo, dobbiamo farlo per sé. Hamilton è a tutto gas. E questa è comunque la tendenza che sta acquisendo la nuova gestione della Formula 1, Liberty Media, che è passata dopo il vecchio cattivo Eccleston ai nuovi cattivi di Liberty Media, che se la stanno provando a svecchiare un po' la situazione. E questo è quello che sta succedendo all'incirca. Cioè, la stanno un po' americanizzando. Sì, sì. È arrivata la squadra nuova americana, la Haas, hanno portato più gran premi in America, vorrebbero farne uno in notturna, stanno pensando a New York, circuito cittadino. C'è Trump dietro, no. No, c'è questo Liberty Media, Case Carey, che è questo bello personaggio. Bello però il cittadino a New York. Notturna addirittura, dai, dovrebbe essere niente male, in effetti. Sì, vorrebbero, stanno alla pensando a fare questa roba. Come? Alla Monte Carlo. Alla Monte Carlo di notte, sì. No, è cittadina. Monaco è cittadina. Monaco è cittadina. Monaco è cittadina, in effetti. Povero. E quindi niente, cioè è sempre più una tendenza americaneggiante quella che stiamo vedendo in questa Formula 1. Perché comunque, cioè, perché poi alla in fondo, no, questa idea americana è che lo sport deve essere spettacolo sempre e comunque. Sì, direi di sì. Anche al di là del... Poi è tutto apparenza, in sostanza. Certo. Cioè c'erano le donne più nude mai viste nel paddock, nella griglia di partenza erano quelle americane. Okay. Infatti sono sprecati i commenti su questo, figuratevi, nel assolutamente giusto mondo della Formula 1. Ma poi veramente in generale è stato proprio uno show, una cosa gigante, super rilanciata, 1020... Suoni sotto in continuazione, tutti scoppi, poca europeità, dicono. Infatti non la vogliono mettere in circuiti italiani, francesi e inglesi, dove dicono mal si innesterebbe. E tipo in Malesia? È tipo in Malesia, è quello che si sta per vedere, è un po' lì che va la direzione. A parte la vecchia Europa, dappertutto si prenderà sempre più un po' quella direzione lì. Vabbè. Capo, io voglio la base però. Eccola lì. Allora, e a proposito di America, sono due giovani piloti americani che io consiglio al futuro Circus. Sono di 10 e 11 anni. E sono uno californiano, l'altro dell'Ohio. Ma è legale? No, però intanto li dovrebbero far correre secondo me nei kart. Vabbè, farli crescere bene. E al tempo debito questi due giovani piloti, di cui per privacy non si conoscono ancora i nomi, potrebbero essere presto interessanti, insomma. Ma vabbè. Sì, esatto. È successo che in Ohio la polizia ha fermato un bambino al volante di un'auto. Aveva 11 anni e andava a 170 all'ora. Però non è che andava, la polizia a un certo punto l'ha fermato e lui ha fatto una fuga. E ci sono stati un botto di macchine della polizia che sono andate dietro a questo ragazzino di 11 anni. Sì, correva, 170 autostrada, fino a che non l'hanno fermato. È stata una cosa lunga. È un ribelle, dai, ci piace allora. Niente male, è finita infatti quando l'hanno acchiappato. Tipo questo scalciava, sputava contro la polizia, non ne voleva sapere. Fino a che non l'hanno acchiappato e l'hanno messo, l'hanno ammanettato, l'hanno messo dentro alla macchina della polizia. Peso però grande, 170, grande fugo. Sì, Super Riot, potrebbe essere anche un carattere interessante, un po' alla James Hunt, alla Kimi Raikkonen. No, no, non è che ci dispiacciono questi personaggi nella Formula 1, soprattutto dove mancano. L'altro, invece, ci spostiamo più a sud e andiamo in California, dove il giovane, anzi no, lo zio del giovane Lopez, sappiamo solo il cognome di questo bambino. Ispanico. È ispanico, sì, sì. Era Ciucco. Ciucco duro. E lo zio. E gli fa al bambino: non ce la faccio a tornare, guida tu. E il bambino, e il bambino prende guida. E va vicino a casa. Ce la fa, cioè dice. Questo è lungo, comunque arriva a pedali, perché. Boh, ma secondo io ci ho pensato, secondo me non c'hanno la frizione. Poi i bambini di oggi sono tutti alti, A parte che comunque 10-11 anni iniziano a essere altini, sì. Cioè la frizione. Esatto, cambiato macchina, effetti solo da. È quello che pensavo anch'io, infatti. Stand by a drive, una roba del genere. Va bene per la Formula 1 questo, perché non c'è la frizione nemmeno nella Formula 1, giusto? Cambio sequenziale. Cambio. Sì, sì, sì, sì. Ci sono soltanto due pedali. Infatti, una curiosità, il sinistro comanda il freno e il destro l'acceleratore. Non è come le macchine si guidano noi che col destro facciamo sia freno sia acceleratore. Come il kart, sì, sì, sì. Certo. Fanno in questa maniera qua. E fra l'altro l'unico pilota che non riusciva a fare era Barrichello, se vi interessa. In che senso? Non gli riusciva, frenava sempre col destro. Faceva sempre col destro. E quindi invece di frenare tutto accelerava? No, a un certo punto a Ferrari gli ha messo un divisorio fra i due pedali. Cioè tipo una lamina, una lamiera di ferro. Un piede solo praticamente. Lui usava un piede solo. Non gli riusciva, vai più forte se sai bilanciare, capito? Chiaro, mentre acceleri già stai decelerando. Barrichello no, come guidasse la Panda faceva con la destra e basta. E la Ferrari ai tempi gli mise questo divisorio centrale. E cioè, per obbligarlo a imparare a frenare. I lacci col delle scarpe di colore diverso. Per capire. E aveva scelto la tecnica delle due orecchiette per allacciarsi. Comunque, a proposito di accessori, se vi interessa, è successo che ultimamente i guanti, la grande tecnologia della Formula 1, ha portato fuori questi guanti. Da questo Gran Premio ultimo in Messico, i piloti indossano questi nuovi guanti, dove ci sono. Che segnalano i parametri vitali. Perché l'anno scorso Kvyat, il giovane pilota russo, a un certo punto si fracassò con la macchina e andò dentro, hai visto quando sono le gomme a dividere? Sì. Dentro, proprio boom, e ci mise un'oretta a uscire perché dovettero tagliare tutte le gomme. Lui stava bene, disse di radio, oh, sto a posto, aspetto, è buona lì. Però nel caso in cui lui avesse preso una botta soda, sarebbe stato fondamentale sapere i suoi parametri. Certo. A seguito di questo è stata sviluppata questa tecnologia in cui nei guanti ci hanno messo tutti questi sensorini. E da oggi, dallo scorso Gran Premio, anzi da ieri, ci sono per i piloti Formula 1 questi nuovi. Tra l'altro, a proposito di accessori, la Puma ha anche fatto le nuove scarpe della Ferrari senza lacci per Vettel. E siamo, frega, sì, sì. Niente, diventa molto. Ma che di quanti? Ma che cazzo ce ne frega? Ma diciamoci la verità, ragazzi. Ma è innovazione. Ma no, vabbè, tutto sensori nei guanti. La società civile. Questa rubrica è soltanto questa sigla. Sì, sì. Comunque ci interessava di Gerardo Lopez. Io non ho finito. Gerardo è il nome dello zio. Gerardo, quando l'hanno fermato, il bambino ha detto: mi stava facendo lezioni di scuola guida. Ah, il bambino, furbissimo, infatti. Gli hanno chiesto allo zio, ma è vero? E lo zio era svenuto sul sedile con una bottiglia in mano, completamente ubriaco. Sì, va, sì, facciamo di sì. Comunque ha magari messo alla luce, all'attenzione delle scuderie, forse il suo nipote. Questo sì, è anche il suo problema di alle forze dell'ordine. Comunque, no, io volevo chiederti una cosa, ma ci sta che avessi già guidato questo ragazzino? Direi di sì, non è facile. Soprattutto il primo, una fuga a 170 all'ora in autostrada. Ma tipo secondo te i videogiochi, cioè in questo, fanno? Faranno. Penso di sì, perché ci sono i simulatori dove hai proprio il volante. Io posso dire, è una vita che gioca ai videogiochi di macchina. Non ho coraggio di prendere la macchina in mano. Però io devo raccontare. Proprio per quello. Devo raccontare. Cioè, sarà che a cui giocavo io avevi come scopo di andare sui pedoni. E quindi non aiuta. Cioè, hai parlato su GTA, certo. No, no, Taxi Driver, Carmageddon, ragazzi. Carmageddon. Vabbè. No, però il mio zio Enio a 7 anni, quando il Subabbo fece l'incidente in via Vespucci, mio zio Enio è morto, era del 32. Prese l'ape e tornò a Peretola. Cioè, quindi voglio dire, si può. Sì, è diventato un pilota. Si può, con la frizione, no come ste mezze seghe di americani senza frizione. Con la doppietta all'epoca. No, poi ha consegnato vino tutta la vita. Vabbè, niente, volevo... Quindi niente, giovani piloti all'attenzione. Sì, sì, sì, sì. Chissà perché non ti hanno offerto un lavoro ancora. Non lo so, non me lo spiego. Davvero? Comunque, ci sentiamo la settimana prossima, dai. Assolutamente. Poi ve le racconto meglio delle vittorie di Hamilton di questo mondiale. Va bene. Non sappiamo se siamo in streaming, ma sicuramente sul podcast ci siamo. Facciamo esatto, potete sentirci sul podcast qui da dove già ci state ascoltando, wobat.noblog.org. No blogs. Allora, vi ricordiamo già che ci siamo, che su posta wombat@insiberia.net è il contatto via mail per interagire con noi. Esatto, per infamare i nuovi registi. Esatto. No, non solo, Noi è ormai quasi un anno che vi diciamo di mandarci tutto quello che volete e quindi rinnoviamo ancora nuovamente. Ciao Lapo, eccoci qui con noi. Rinnoviamo, no? L'invito a mandarci quello che volete, cioè se volete sentire dei pezzi, se volete parliamo, approfondiamo qualcosa, o volete infamarci. Sì, se volete chiudiamo, si smette, tanto no. Prendiamo costruttivamente le critiche. E l'altra cosa qui che è un po' triordi, all'inizio, quando agli albori di quando iniziamo, era veramente tutti i giorni facevamo un elenco del palinsesto perché era in crescere. Vero, ogni giorno aumentava. È tuttora in crescere. Tuttora, esatto. Radio Wombat cresce con nuove trasmissioni. Per esempio, settimana scorsa c'è stata la prima puntata della nuovissima Coming Song. Coming Song. Coming Song che ha ripercorso tendenzialmente che... proprio la nascita. Si occupa di cinema. Quando trasmettono? Allora, la trasmettono alle ore 20 il martedì ogni 15 giorni. Quindi una volta al mese, sì, certo. Una volta al mese, quindi questo mese c'è già stata, si va al mese prossimo. Con, se non sbaglio, c'è anche una replica, no, ancora non è stato inserito nella replica, ma presto lo sarà, anche perché c'è ancora tanto spazio libero. Coming Song che ha ripercorso la nascita proprio del cinema legato al suono, quindi ha parlato delle colonne sonore. Partendo proprio dal cinema muto, che poi in realtà muto non era, nel senso che già c'erano, ci racconta, già legati a della musica di sottofondo. Erano musicati, o addirittura a volte anche recitati, cioè c'era qualcuno che leggeva didascalie, che appunto, che musicava, comunque sonorizzava. Esattamente, e fa un po' tutto l'excursus del storico, arrivando anche poi a raccontarci quando si comincia a pensare al suono come un accompagnamento anche ideale a un certo tipo di personaggio, quindi quando c'è un certo tipo di scena, un certo tipo di personaggio. Io sto dicendo quello che ho sentito alla trasmissione. Si associa, no? Come si chiamano? Idem. Quello lì. Cioè sono i pezzi fatti su misura per i personaggi. Insomma, quindi molto interessante, molto storica ancora. Probabilmente poi dopo scoppieranno i fuochi d'artificio man mano che si va avanti nel ripercorrere la storia, insomma, un po' della musica all'interno dei film. Quindi non vediamo l'ora, direi. Vedo ogni 15 giorni, non una volta al mese. Cioè, due al mese. Certo, ogni 15 giorni, quindi uno e due, sì. Sì, sì. Giusto. E non finisce qui, no, caro Lapo? Non finisce qui, no. A parte ho visto, è uscita un'altra puntata di Basement Records. Esattamente. La numero 5, che ora non credo abbia cadenza fissa. No, ora è random. Però il podcast è lì, ogni volta tirano fuori un sacco di perle. Oltretutto la trasmissione è aperta, nel senso che se trovate se avete in cantina una scatolone di 45 giri, probabilmente se venite in... in regia e si spara anche quelli. Esatto, allora vi farei un piccolo elenco di delle quando sono le trasmissioni in diretta. Poi le repliche in realtà potete trovarle sul sito, i giorni e le ore in cui vanno. E vi dico anche una cosa che non abbiamo mai detto: alle ore 2, alle ore 4 e alle ore 6 della mattina ci sono repliche random. Quindi chissà cosa tutti lì ad aspettare. Sorpresone. Allora, quindi, aggiornamento rapido del palinsesto. Esatto. Com'era? Allora, partiamo il lunedì, che comunque, ripetiamo, è in divenire. Quindi controllate spesso il nostro sito wombat.blogs.org per vedere se ci sono novità. Allora, il lunedì, appunto, in diretta alle 13, Senza Frontiere, nuova trasmissione che ragiona, che parla, diciamo, tendenzialmente di lotte, non solo... Come? Alle frontiere. Esatto, di lotte alle frontiere, quindi... Sì, ci sei. Quindi, sicuramente No Border, come anche noi abbiamo parlato diversamente. Ho sentito l'ultima trasmissione, era proprio sulla Catalogna, fra l'altro. Catalogna, dopo... Catalogna, era un'intervista a un... Esatto, a bravo. Un attivista. Bravo. Catalogna, e dopo parleremo un po' della Catalogna. O anche... Però intanto andiamo avanti col palinsesto. Anche perché ne abbiamo parlato diverse volte della Catalogna, quindi è giusto non lasciare morire quello che cominciamo ad approfondire. Alle ore 14 sempre oggi, quindi già passati lunedì, passaggio a Nord-Ovest. E tra l'altro, se non sbaglio, ci sono commistioni di regie fra queste due trasmissioni. Sì, i conduttori sono... Che parla invece delle lotte nella zona nord-ovest della città di Firenze, chiaramente. alle 16.30 Fuoco alle Polveri, e poi finisce qui le dirette, finiscono qui le dirette del lunedì. Il martedì abbiamo una sola diretta, che è Coming Song ogni 15 giorni, quindi mi raccomando, non perdetela. Il mercoledì invece alle 19 Soul Time, Soul Time che ci veramente è musica al 100%, si balla a manetta. Alle 21 Slick Chic invece, gran programma, altro storico programma di Radio Wop. Possiamo cominciare a dire così. Tutte le sigle faccio. Il giovedì alle 19.30 abbiamo l'Accademia della Brusca, che ha preso un andazzo strano e si sta occupando dei torpiloqui in ogni salsa. Quindi non perdetevi, l'Accademia della Brusca, che in generale ci parla del linguaggio, dell'uso del linguaggio a seconda della tipologia che vuole affrontare. Alle 21, sempre giovedì, 8 Hertz, grande musica, sempre visto Radio Wombat. Passiamo al venerdì, alle 15.30, Coccoli al Silicio, meraviglioso Coccoli al Silicio, che è tornato a pieno regime e siamo tutti molto contenti, no? Sì. Il Ginox che teneva 3.000 siepi, non c'è più 3.000 siepi, però ha intrapreso sta roba di Coccoli al Silicio, filosofia e tecnologia. Com'è? Filosofia e tecnologia, pazzesco. Alle 21.30, sempre venerdì, subito dopo Coccoli al Silicio, Uru, la musica dall'Africa, dal continente africano. Uru vuol dire libertà in Swahili. In Swahili, brevissimo. Allora, siamo alla fine della settimana. Sabato alle 22.30, Tonight Alive, sempre in diretta. Dalai Dama. Il Dalai Dama che ci regala sempre o dei live o comunque... Sempre dei live e comunque un sacco di personaggi che hanno fatto la storia della musica. Veramente dei approfondimenti interessanti ci raccontava, e lui ci mette diverso tempo per preparare la trasmissione. Perché a differenza nostra. A differenza nostra la improvvisiamo. La domenica concludiamo... la settimana Wombat con alle 16 si legge in inglese 13 boots 12 13 boots 12 a tua scelta, non lo so, sinceramente non lo so, lo chiederemo e poi ve lo diremo, sentirei. Oppure ascoltate direttamente loro alle 16 la domenica e sentire di cosa si tratta e come si pronuncia più che altro. E concludiamo alle 18 con La Fuga del Gatto, che invece si occupa di musica classica, insomma l'unica trasmissione si occupa di quello, quindi molto, molto bellina e interessante. Devo dire che a chi non piace la musica classica magari gli viene per esempio eccolo qui l'apo, a chi non piace la musica classica. Ok però insomma state accorti, perché poi ci sono nuovi arrivi, nuovi arrivi, assolutamente nuovi arrivi a partire dal mese prossimo, ve lo dico, chissà, grandi sorprese. Ok, allora cosa prevediamo, regia, in questo momento? Beh, direi una canzoncina di stacco. Di stacco. Allora, ripigliassi. Dai. Gotamarro o non Gotamarro? Ma via di mezzo. Non avevo dubbi. Wombat. So they can ride out to the honeycomb, hide out. I'ma show you how to ride out like that tripper. Let me be Bambino on your slippers. YKK on your zipper. Lick you like a lizard when I'm slizzard. I'm sober. 6 million ways to fold ya. Like Noah's, I get tons of views and you get pretty deep. But I call your ass round 8-ish, I know you'll be there for me, girl. Ain't nobody don't ask me, I'm just so. Potete sentire, entro io. Eccolo, sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo. Allora, dicevo che entro io perché che c'entri te? Io c'entro sempre. E non c'entro mai allo stesso tempo. In passato avevamo tante letture, vi ricordate? Legge Tasso. Legge Tasso. Tasso. Telesimba. Telesimba. Abbiamo letto tante cose, ci mancano un po' di lettere. Ah, a parte anch'io ho letto la volta scorsa, in effetti. L'urlo dei Balcani. L'urlo dei Balcani, però l'urlo dei Balcani è più un urlo, c'entro che una lettura. Sempre. C'entro sempre. Invece abbiamo una nuova lettura, finalmente siamo molto contenti, grazie al nostro... Super lettura, Mascalzone. Mascalzone. Grazie al nostro Mascalzone. Niente, fondamentalmente la prefazione, nella mia idea sarebbe qui adesso, nelle prossime due puntate, leggere altri due pezzi, insomma, tratti da questo libro bellissimo. Che dovete leggere assolutamente, che si chiama L'etica hacker e lo spirito dell'età dell'informazione. Edito? Edito da Feltrinelli. Ai. Io ho l'edizione 2001, è stato ristampato recentemente, ma edizione anche strafiga, fra l'altro, e chi l'ha scritto sono in tre, ha scritto a sei mani, quindi, a tre cervelli e sei mani. Sono dei gran personaggioni che vengono presentati anche nel pezzo che vi voglio leggere adesso, quindi non ha senso presentarveli. Bene. Ci fidiamo. Ah, mi scuso totalmente per gli errori, sono un po' raffreddato e tutto il resto, ma ci si prova. Anche una base casuale. Prefazione di Pekka Immanen. Cattivissimo. Al cuore della nostra epoca tecnologica si trova un affascinante gruppo di persone che si fanno chiamare hacker. Non sono celebrità televisive da nomi noti, ma tutti conoscono le loro imprese, che in gran parte costituiscono la base tecnologica della nostra nuova società. Internet e il web, il personal computer e una parte importante del software utilizzato per farli funzionare. Il file di gergo, the jargon file degli hacker, compilato collettivamente in rete, li definisce come persone che programmano con entusiasmo, che ritengono che la condivisione delle informazioni sia un bene positivo di formidabile efficacia, e che sia un dovere etico condividere le loro competenze scrivendo free software e facilitare l'accesso alle informazioni e alle risorse di calcolo ogni qualvolta sia possibile. Questa è stata l'etica degli hacker fin da quando, nei primi anni 60, un gruppo di appassionati, programmatori del MIT, iniziò ad autodefinirsi in questo modo. In seguito, a partire dalla metà degli anni 80, per i media, il termine è diventato sinonimo di criminale informatico. Per evitare di venire confusi con coloro che creano virus e penetrano nei sistemi informatici, informativi, provocando danni, gli hacker hanno cominciato a chiamare queste persone cracker. In questo libro viene osservata la distinzione tra hacker e cracker. Vabbè, piccolo inciso. Il mio iniziale interesse, questo che parla è sempre Pekka Immanen, che è un super sociologo, il mio iniziale interesse per gli hacker era essenzialmente di natura tecnologica, indotto dal fatto che i simboli più conosciuti del nostro tempo, la rete, il personal computer e i software, quali il sistema operativo Linux, in realtà non sono stati sviluppati da aziende o da governi, ma creati soprattutto da alcuni individui entusiasti che semplicemente si erano messi a realizzare le loro idee insieme, assieme ad altri individui animati da interessi comuni e lavorando autonomamente. Volevo capire la logica interna di questa attività, le forze che la guidano. Tuttavia, più pensavo agli hacker, più era evidente che ciò che li rende ancora più interessanti dal punto di vista umano è il fatto che rappresentano una sfida spirituale di portata generale dai nostri tempi. Gli hacker stessi hanno sempre riconosciuto l'applicabilità dei loro metodi su scala più ampia. Non è il caso il loro file di gergo precisa che un hacker è sostanzialmente un esperto o un entusiasta di qualsiasi tipo. Si può essere anche hacker dell'astronomia, per esempio, o della cucina, aggiungerei tipo. In questo senso una persona può essere un hacker senza avere mai nulla a che fare con i computer. La domanda principale si trasforma quindi in: che cosa succede se guardiamo gli hacker in una prospettiva più ampia? E che significato ha allora la loro sfida? Considerata da questo punto di vista, l'etica hacker diventa sinonimo di quel generale rapporto entusiastico nei confronti del lavoro che si sta affermando nella nostra età dell'informazione. In questo senso, l'etica hacker si presenta come una nuova etica del lavoro che sfida la mentalità che ci ha resi schiavi per così tanto tempo. Quell'etica del lavoro protestante, analizzata nel classico di Max Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Per alcuni hacker, l'accostamento tra la loro etica e Weber può sembrare a prima vista incongruo, ma dovrebbero ricordare che in questo libro l'espressione etica hacker viene usata in un'accezione che trascende il mondo dell'informatica e che per questa ragione mette a confronto forze sociali che non vengono normalmente considerate nelle discussioni incentrate esclusivamente sul computer. L'ampliamento del concetto di etica hacker rappresenta così una sfida intellettuale anche per gli stessi hacker, ma l'etica hacker è soprattutto una sfida per la nostra società e per la vita di ciascuno di noi. Oltre all'etica del lavoro, il secondo importante livello della sfida lanciata dagli hacker riguarda l'etica del denaro, un aspetto che Weber definì come altra componente fondamentale dell'etica protestante. È evidente che quella condivisione delle informazioni citata in precedenza non rappresenta il modo dominante di fare soldi oggi nella nostra epoca. Al contrario, il denaro viene accumulato soprattutto tramite il possesso delle informazioni. E neppure il principio etico, ethos, degli hacker, secondo il quale la loro attività deve essere motivata non dal denaro, ma soprattutto dal desiderio di creare qualcosa che la comunità dei pari possa ritenere di valore, è un'attitudine comune, non lo è. Se non è lecito affermare che oggigiorno tutti gli hacker condividono questa idea del denaro e che presumibilmente essa si diffonderà in tutta la società, possiamo invece dire che essa ha rappresentato una forza importante nello sviluppo della nostra epoca e che il dibattito tra gli hacker sulla natura dell'economia e dell'informazione potrebbe portare a conseguenze come minimo altrettanto radicali di quelle della loro etica del lavoro. Il terzo elemento, la fine, non è troppo lungo ancora, il terzo elemento presente nell'etica hacker fin dai suoi esordi, di cui si è accennato in precedenza con la frase facilitare l'accesso alle informazioni e alle risorse di calcolo, potrebbe essere definito come la loro etica del network o netica, netic, cioè net più ethic. Essa sostiene idee come la libertà di espressione e l'accesso per tutti alla rete. La maggior parte degli hacker condivide soltanto alcuni degli aspetti di questa netica, ma il significato sociale di tale adesione deve essere inteso in un senso generale. Certo, l'impatto di questi temi è tutto da verificare, ma essi si collocano senza dubbio al cuore delle sfide etiche dell'età dell'informazione. Questo libro si basa su una collaborazione continua tra i suoi tre autori, ecco la presentazione, attuatasi in varie forme nel corso di parecchi anni, attraverso le ricerche condotte assieme a Manuel Castellis in California e il divertimento condiviso con Linus Torvalds. L'idea di un libro che parlasse dell'etica hacker è nata nella primavera del 98, quando tutti e tre ci incontriamo per la prima volta, dopo essere stati invitati a parlare a un dibattito organizzato dalla University of California a Berkeley, tradizionale roccaforte hacker. In quell'occasione concordammo di dare seguito a quei discorsi. Si decise che avrebbe iniziato Linus in quanto rappresentante del mondo degli hacker. Manuel avrebbe presentato la sua teoria sulla nuova età dell'informazione, vale a dire la nascita dell'informazionalismo, il nuovo paradigma della tecnologia dell'informazione e di una nuova forma sociale, la Network Society. Io avrei infine esaminato il significato sociale dell'etica hacker, inquadrando l'esempio di Linus nel più ampio orizzonte della nostra epoca, tracciato da Manuel. Naturalmente ciascuno di noi avrebbe parlato per se stesso. Il libro segue questo schema. Nel prologo, come agiscono gli hacker, ovvero la legge di Linus, megalomane Linus, un personaggio incredibile. Linus, in quanto promotore di una delle più famose creazioni hacker del nostro tempo, il sistema operativo Linux, descrive il gruppo e il proprio punto di vista sulle forze che contribuiscono al successo dell'hacking. Manuel, dopo aver passato gli ultimi 15 anni studiando la nostra epoca, ha pubblicato un'opera in 3 volumi e 1500 pagine, The Information Age. Nell'epilogo di questo libro, L'informazionalismo e la Network Society, egli sintetizza per la prima volta i risultati della propria ricerca, con alcune nuove importanti aggiunte, in una forma accessibile al lettore comune. La mia analisi si situa fra quella di Linus e quella di Manuel, ed è suddivisa in 3 parti, secondo i 3 livelli dell'etica hacker: l'etica del lavoro, l'etica del denaro e la netica. Quei lettori che... vabbè, è finita qua, diciamo, poi parla solamente di piccoli consigli di lettura per questo libro. E questa è l'introduzione, in realtà. Mi sono reso conto che è anche un po' noiosa, forse, però... A parte gli altri 2 pezzi che spero di poter leggere nelle prossime puntate, sono molto più interessanti perché parlano proprio dei contenuti del libro invece di presentarlo. Questa è l'introduzione del curatore. Ok, quindi questa curatore. È l'introduzione a quello che poi ci racconterai un po' anche. Sì, che vi racconterò anche. Posso fare una domanda? Certo, vai. Ma quindi, cioè, secondo loro, cioè, per dire un esempio, va bene? Chi impara a fare qualcosa è un hacker, tendenzialmente. Non chi impara a fare qualcosa, ma chi lo fa, chi si impegna nel farlo per semplicemente per la bellezza di fare qualcosa, di fare qualcosa di utile per se stesso e per i propri pari. Cioè, sì, potremmo dirla così, semplicemente. C'è chi lavora con passione. Ora lo spiega molto bene, ci sono dei passaggi. Però per dire, no, a me ora è venuto in mente riguardo a quello che si diceva prima. Si parlava della ciclofficina a brugola rossa. Cioè, in un certo senso, chi va a aggiustarsi la bicicletta, assolutamente, è un hacker. Certo, cioè, sta facendo hacking. Chi impara ad aggiustarsi la bicicletta da solo, chi si emancipa da il brutto sistema delle aggiustatore di biciclette. Sì, no, scusate, però è un po' il riappropriarsi della competenza degli strumenti che utilizziamo. Esatto. E quando ciò è fatto ed è ricondiviso, è un arricchimento della comunità, non un arricchimento del singolo. E non c'è questa l'accumulazione del sapere, dell'informazione e delle competenze private, che quindi arricchiscono solo chi le possiede, ma c'è una condivisione, come cioè è l'etica molto della condivisione all'etica scientifica della comunità scientifica, cioè che il tacito accordo che unisce quasi tutta la comunità scientifica, che dice che quando io faccio una scoperta la rendo disponibile per tutti gli altri componenti della comunità scientifica per studiare, portarla avanti, per sperimentarla. Questa è molto simile come idea, insomma. Ecco, gli scienziati sono degli hacker iper infognati. A quando risale il libro? È detto del 2001, ma il libro è del 2001, edizione, la prima edizione, questa qua, sì, è in biblioteca, presa in prestito. Mentre, cioè, è stato pubblicato? Nel 2001, appunto. Nel 2001, fratto. Prima pubblicazione del 2001. Ok, sì. Ma è la nascita dell'hacking? La nascita dell'hacking, anche qui c'è un... alla fine, dopo le note, c'è un bellissimo riassunto della storia dell'hacking. Comunque l'hacking nasce, correggimi se sbaglio, comunque intorno agli anni 60, anche prima in realtà, cioè con la nascita di tutto quello che al MIT, il primo nucleo, cioè i primi che cominciarono a chiamarsi hacker proprio, che erano un gruppo di studenti di informatica, che all'epoca l'accesso al computer era molto regolamentato, cioè era una roba, a parte che erano computer grossi come stanze, e per accederci, cioè per immetterci dei codici, dei dati, qualcosa, dovevi metterti in lista e andare con le schede forate, quindi prepararti queste mega, sì, questi sì, mega pile di carta, di cartacce, di schedine, tutto il resto, e poi andare lì, inserire manualmente, e dovevi aspettare giorni anche a volte per vedere i risultati. Il calcolo, E proprio contro questa cosa qui, per avere un accesso libero, un accesso continuo e una maggior fluidità nell'uso del computer, nacque si fondò i primi gruppi hacking, che è divertente perché il primo gruppo hacker che definì, che proprio creò la parola anche e il modus operandi, il modo di comportarsi, nacque dalle ceneri di un club universitario del MIT che costruiva plastici per i trenini elettrici, tipo, cioè si costruivano questi mega plastici cercando pezzi di recupero e hackerando proprio i pezzi fisici, cioè cambiandogli, cercando di fargli funzionare nel certo. modo in cui volevano loro, e da lì nasce proprio il primo gruppo che si definì così. E infatti poi tutta questa storia l'abbiamo un po' vista in quel ciclo in polveriera del Luck Feeling, che faceva vedere tutti i documentari legati anche alla nascita. Si vedevano anche proprio le interviste, no? Ai ragazzi che hanno per la prima volta, quelli del MIT. Sì, è vero, è vero. Ma è definibile hacking anche una produzione sotterranea di cultura, di socialità, di fumetti? Ah, beh, direi di sì. Se c'è l'autoproduzione, se c'è l'autoproduzione, San Salvi. Creiforme San Salvi. San Salvi, sì, siamo a Firenze. Chiaramente di cosa sto parlando, secondo te? The Borda Fest. Il Borda Fest. Perché come sapete, Luca Comics ormai penso lo conoscono anche mia nonna la conosce ormai. Però durante il Lucca Comics c'è un altro festival molto figo, che è il Borda Fest. Esatto, dal 2 al 5 novembre. L'altro. Quindi questa settimana. Dove? A Lucca. A Lucca. A Lucca. Tra il Baluardo San Martino e il Foro Boario. Tendenzialmente è sotterraneo anche proprio fisicamente, è molto bellino. Ma io devo entrare a Lucca Comics per andare a Lucca Comics? No, il Borda Fest è entrata gratuita. Si può entrare, incontri, ci sono incontri, presentazioni e tutte produzioni, autoproduzioni di fumetti e riviste. E la sera concerti. E la sera concerti, bravissimo. Cosa c'è da dire però, una cosa interessante, è che il Borda Fest ha un fil rouge che lo collega nei vari anni. Che edizione è questa? Allora, questa è la... aspetta. Fai una canzoncina di supporto. No, c'è già. Quarta edizione. La quarta edizione. Grazie. Sì, la quarta edizione, l'avevo letto prima, non riuscivo a ritrovarlo. Però è interessante proprio l'idea che c'è dietro. Quest'anno il titolo è Pianeta di Forme. E si chiude, appunto, siamo al quarto anno, si chiude la quadrilogia di questa Subterranean. Di Forme scritto con DY, Do It Yourself. Esatto, bravissimo, bravissimo. E quindi rientra proprio a fagiolo. Ci piace. Praticamente quindi divisa in 4 anni, le produzioni sotterranee sono sbucate, diciamo, anni. Idealmente in 4 giornate, in 4 anni, quarta edizione. Questa è la quarta edizione. Lasciamolo parlare, ragazzi. Sai il fatto suo. Come prima cosa è sbucato appunto proprio dalla crosta terrestre attraverso i tombini. E infatti il primo anno, che era il 2014, il titolo era Rise of the Subterrans. Quindi legato al... Dici, caro? Rise of the Subterraneans. Grazie, facciamo grazie. Le correzioni. Grazie. Ora ti dirò allora anche il nome dell'anno successivo, così mi aiuterai. Poi, una volta usciti dai tombini, no? Queste produzioni sotterranee hanno dovuto affrontare quello che c'era sopra, al di sopra. E infatti il titolo del 2015 era... Subterraneans Among Us. Capito? Che vuol dire i sotterranei tra di noi. Esattamente. Sì. Quindi, usciti dai tombini... fra la gente comune, per resistere a chi voleva ricacciare sottoterra questa visione, no? Del sotterranea delle produzioni. Mi foga un sacco. Nel 2016, invece, l'anno scorso, che abbiamo seguito, titolo in italiano è Stiamo Attaccati. Che però la T era fra parentesi e quindi era anche Siamo Attaccati. E quindi è a questo punto la condivisione. La condivisione dei saperi, appunto, quindi davvero come ci ricolleghiamo. Risposta, sì. Come risposta a ciò. Anche perché poi... all'attacco esterno. Per ricollegarmi a quello che dicevi te, non per forza appunto l'etica Haken è un qualcosa di malvagio, no? Assolutamente, anzi, no, è qualcosa, definizione di, no, è cioè, qualcosa di positivo. Infatti il Bordafest non è che si mette in opposizione al Lucca Comics, ma casomai in sovrapposizione, ok? Parallelamente, qualcosa viene dal sottosuolo. Quindi la prima cosa con cui si è anche messa in contatto era il mondo dell'editoria normale. Il suolo. Esattamente. Il pianeta di forma invece è diciamo il pieno di, questa, di questo percorso, quindi dalla Terra sudatissima, perché si collega chiaramente a tutti gli altri festival che ci sono in giro per l'Italia, che similmente affrontano il, le produzioni sotterranee di ogni tipo, tipo l'Alfa a Milano, il Caco Fest a Bari anche. Dici, caro? AFA. Okay, okay. AFA. Ma qui vicino a noi abbiamo anche il Combat Comics Livorno, per esempio, che non abbiamo mai menzionato, un'altra delle produzioni sotterranee hacker che stiamo dicendo. L'Olé Bologna, altro festival molto interessante. Ratatà Macerata. E poi quello definiscono loro l'autonomadre di tutti i sub-party, cioè il Crackland a Roma. Esattamente, il nostro regista annuisce con verve. Di gusto, di gusto. E infine abbiamo lo UE Fest Napoli. Lo UE, UE, cioè il UE di... UE, UE! Esatto, è lo UE Fest Napoli. Ma non solo, è citato proprio sul sito del Bordafest anche, chiaramente, Inchiostri Ribelli di Firenze. Oh yeah. Perché anche lui si inserisce in questa uscita dal sottosuolo delle, delle autoproduzioni. Niente, quindi dicono loro: siamo immersi e ci prendiamo i cieli, ma non li lasceremo. Non lasceremo loro come le nostre terre. Difenderemo gli spazi dove viviamo liberi insieme e ci divertiamo. Libereremo più possibile Gaia, la Terra, dando valore alla singolarità e alla diversità, tramutandola nel primo pianeta difforme dell'universo. Questo ecco quello, ci piace molto. Buon presupposto. Buon presupposto. Quindi non perdete dal 2 al 5 dicembre a Lucca. Novembre, a Lucca il Bordafest. Questa settimana. Che è questa settimana. Non solo, datevi una mossa. Datevi una mossa, esatto. Tra il Baluardo San Martino e il Foro Boario, cercate, tanto c'è un sacco di cartine a giro per Lucca in questo periodo, quindi lo potete trovare e c'è indicato chiaramente anche il Borda. Oh, cosa volevo dire? Volevo dire un'altra cosa, ma me la sono scordata. Mannaggia. Comunque dai, guarda, ti do un 8, anzi un 9 sulla promozione, però un 3 meno sull'inglese. Vabbè, certo, anche quando promuovo in francese i radioascoltatori ridono. Beh, già che ci siamo potremmo raccontare un po' gli altri appuntamenti della settimana. Sì, allora, chi li dà? Sì, vai, parto segna. Io, mi lancio il, quello che c'è domani al, al Next Emerson. C'è una presentazione del libro Correvo pensando ad Anna, con l'autore Pasquale Abatangelo, seguito poi dal concerto dei The Moggies, il Braso, e per finire con gli Emerson Setter Sound System, che conosciamo bene. Il tutto anticipato dalla, da una cena sociale, quindi appuntamento alle ore 7, domani all'Emerson. Non mancate, rientra nei festeggiamenti lunghi o non sbaglio? Rientra nel festeggiamento del compleanno, il compleanno alla fine si è svolto tutto l'arco di ottobre, quindi è il giorno conclusivo di questa grande festa che è stata l'ennesimo compleanno dell'Emerson, non ricordo il numero. Non è importante, l'importante è festeggiare. Undicesimo, dodicesimo, sedicesimo. No, più, sì. Chiederemo domani. Dopodiché? Dopodiché c'è il sono più proiezioni cinematografiche il giovedì c'è sia in Via del Leone, all'occupazione di Via del Leone proiettano il primo film della trilogia blu di come si chiama il regista? Kieslowski, conoscete tutti, no? Kieslowski. Se non lo conoscete andate a Via del Leone giovedì e guardate questo film. Se invece siete dall'altra parte della città e vi interessa invece di più magari vedere Aquarius di Kleber Mendoza figlio, allo spazio Inchiostro, il mio regista preferito, ho visto tutti i suoi film, tutti quanti. Comunque anche a Spazio Inchiostro ogni giovedì ci sono le proiezioni. Quindi consiglio. E sono sempre titoli parecchio calzanti, molto interessanti. Alle ore? Entrambi alle 9:30 cominciano le proiezioni, se non vado errato. Vai, no, non vado errato. Quindi tocca scegliere. Venerdì 3 invece torniamo all'Emerson, che c'è lo Heavy Cold Friday Part 1. Ci sono due band internazionali, una non so come si possa pronunciare questa cosa. Che lingua è? Faccio lo spelling. Vengono dagli Stati Uniti, da Pittsburgh. Pittsburgh. Però sì, Edhochuli. Edhochuli. Edhochuli. Davvero? No. No. Ci sta. Nella mia testa suona così. Poi sentiamo il madrelingua dice? Non è una parola. Non credo sia una parola della lingua. Madrelingua dice. Un pittsburghese come la leggerebbe? Pittsburghese. Chi lo sa? Edhochuli. Qualcosa del genere. La prendiamo per buona. No, non so neanche come parlano quelli di Pittsburgh, quindi ho tirato completamente a caso. Ma comunque loro poi staglio olio. Dai, probabilmente americano. Dalle 10:30 loro e i Nofu da Roma. Belli Nofu. E poi si va a chiudere la settimana. Non so, in realtà sono altre cose nel mezzo. Ho fatto una rassegna un po' tirata per le orecchie. Beh, non so, vediamo. Così in chiusura, abbiamo poco tempo. Però c'è il casino di roba che ci può essere da qui. A domenica prossima si va appunto a planare sul Sunday Vinyl Session Number 1 organizzato da Imiruz Sound System in polveriera. Con ospite Soul Rockers, e sarà un pomeriggio di black music da vinile su vinile, tutti vinili, con un bel sound system, un bel pomeriggio per ripigliarsi un po' dalle fatiche della settimana. Bellissimo, mi è tornato in mente quello che volevo dire prima, cioè che il Borda Fest è un festival però autofinanziato, e quindi c'è un crowdfunding per sostenerlo. Beh, penso sia già chiuso, però lì uno può. Crowdfunding è già chiuso. Penso. Non lo so. Beh, probabilmente potrebbe a breve inizierà quello per l'anno nuovo, comunque. Sì. Infatti. No, ma comunque puoi dare il tuo contributo. Vabbè, andando lì, sì, certo. Anche comprando solo andando lì, certo. Gadget o anche solo con la presenza, sicuramente dai il contributo. Sì, non so se Radio Wombat addirittura ha partecipato al crowdfunding l'anno scorso. Non lo so. Forse possibile. Sì, la polveriera sicuramente, ricordo. Vabbè. Comunque tutte le cose che citiamo, tutti gli spazi, le realtà che citiamo in questa rassegna, ci teniamo a dirlo, sono autofinanziati o raccolgono per benefit per le spese legali dei compagni o per portare avanti i progetti, autoproduzioni, perché sono questi gli spazi che ci piacciono, sono questa l'etica, il tipo di etica che ci piace, quindi garba. Noi rassegniamo questi eventi. Ho trovato la sigla della rassegna eventi, quindi puoi farla partire? No, no, no. Ah, no, per la non faccio partire. Mi dicevi Vai. Prima che c'era invece, che mi stavo perdendo stasera. Ah, stasera. Se non sapete che fare stasera dopo Folle Polveri, siete tristi perché no, è finita. Visto che se ne parlava anche, mi pare, settimana scorsa proiettano la corazzata Potemkin. Dove? Al CPA. Ah, al cinema del Potemkin. Esatto. Mi pare alle 20, non vorrei dire una sciocchezza, quindi andate a controllare su siti e quant'altro. No? Sì, all'interno, fra l'altro, la proiettano all'interno di un ciclo di proiezioni. La corazzata per il centenario della. Per il centenario, sì, della rivoluzione d'ottobre. Quindi bene. Non è l'unica, seguite anche. A questo punto posso far partire la sigla, visto che finora l'ho sempre fatta partire in fondo. Proseguo la tradizione. Sigla! Rassegna eventi. Beh, che sigla. Che bene rappresenta la. Sì, sì, ci la difficoltà di ingranare. Vabbè, anche perché a volte ne abbiamo veramente 2000, altre volte pochine, insomma. Grippiamo. Bene. facciamo in tempo a mettere una canzoncina prima dei saluti. Certo, doverosa. No? Sentiamo cosa ci regalate. Allora, visto che prima si parlava di hacker, queste cose qui, a me mi è venuta una canzoncina a base 8 bit. Loro sono i Thermostatic e questa è So Close Sonier. Pezzo. Oggi un po' elettronici siamo. Dai. Sì, sì, ci sì, piace. Un po', music to roll, in effetti, un po' hacker, un po'. Un po' hacker, vabbè, ma l'hacker può essere anche, non so, costruirsi una chitarra elettrica e suonarla, no? Cioè, una radio. Dove sono le chitarre? Dove sono oggi le chitarre? Non ho sentito chitarre. Basta, sentito le chitarre, hanno rotto il cazzo. Ecco, con lì. Jimi Hendrix è finito tutto, basta. Sì, arrivava lui. Cose a caso, non è vero, bella chitarra. Ragazzi, allora, siamo arrivati in conclusione. Però, dai, chiacchieriamo un ultimi 5-10 minuti. Finalmente, diamoci un attimino di tempo per concludere e riprendere il discorso sulla Catalogna. Dai, dai. Quindi sì. Pensate, sì. Avete voglia di chiacchierare con me? Ma ora? Sì, ora. Questi 5-10 minuti finali. Ultimamente abbiamo dato un po' di priorità alle nostre nuove rubriche, a questioni cittadine fiorentine, giustamente. Giustamente, però non scordiamoci anche della nostra anima un pochino più che guarda anche al di là dei nostri confini, no? Internazionalista. Esatto, quello che faceva un po' anche musichette buffe, è veramente un peccato che non ci sia più, sono molto triste. No, c'è stato. C'è stato il numero 37. L'idea comunque sia è di mantenerla una volta al mese, in modo è giusto, da fare è giusto. Cose un minimo approfondite. Quando ragioniamo di questioni appunto anche più grandi, è bene saper parlare, quindi preparare qualcosa di... Poi magari uno non ci riesce comunque a comunicare, però ha provato a studiare, così dai. Esattamente. Ritornando quindi alla storia della Catalogna, come tutti voi ben sapete, insomma, è comunque una storia che riecheggia nel globo, perché è questa spinta di autonomia che si stacca dai grandi stati nazione che si stanno disgregando piano piano. Cambia il momento storico. Siamo arrivati a un epilogo, insomma, un momento di passaggio abbastanza duro. Beh, sì. C'è stata la dichiarazione, insomma, ufficiale dell'indipendenza e quindi tutte le varie risposte, no? La risposta del governo, che è arrivata appunto ai suoi estremi risultati, appunto la richiesta di incarcerazione immediata, in particolar modo del presidente del Parlamento catalano e poi di tutti, insomma, gli autori di questa... Sì, infatti hanno chiesto, per proteggersi, insomma, l'asilo politico al Belgio. Bravo. Che anche in Belgio, cioè, sappiamo, penso sappiate, ha storicamente dei grossi problemi interni anche per la parte francese, anche solo al proprio interno, per dividere il Belgio stesso e dentro questi due movimenti per uscire proprio fuori da tutto il resto e stare indipendenti alla fine, no? Se non sbaglio. Sì, sì, assolutamente. Parte fiamminga, parte francofona. Ora, diciamo. Cosa ci interessa a noi di questa storia? A me principalmente, un po' in linea anche con quello che è Radio Wombat, cioè una narrazione alternativa, ci interessa la narrazione alternativa di questa storia, nel senso che davvero la master history che gira è che fondamentalmente sia una richiesta di indipendenza basata su dei criteri di egoismo economico, cioè non condividere le proprie risorse ricche della Catalogna con il resto della Spagna. E infatti giornali, sia sul web che in televisione, portano avanti questa idea, e anche i grandi esperti italiani, quando ragionano e analizzano questo movimento indipendentista, che comunque destabilizza l'Europa, perché è quello più avanzato di tutte le idee indipendentiste, tutti gli analisti comunque poi non perdono di vista quella narrazione economica e non citano parimenti invece anche tutto il movimento che c'è dietro. Ora, al di là del fatto che sia una minoranza o meno, cioè, no, c'è tutta la discussione, se sono andati a votare, seppur una votazione dell'indipendenza viziata dalla presenza della polizia che non faceva votare, comunque un 40% della popolazione è riuscito a votare o ha voluto votare, appunto non si sa, di questo 40%, più del 90% ha detto sì, vogliamo essere indipendenti. La grande narrazione, appunto, delle analisi dei giornalisti vertono sempre su dire va bene, ma questi sono comunque una minoranza. Perché comunque la frangia indipendentista è una minoranza e lo è sempre stato. Perché dobbiamo differenziare tra indipendentismo e autonomia, innanzitutto. Perché il grande movimento autonomista, che invece è molto più ampio, catalano, negli anni che precedono gli avvenimenti di oggi, ha cercato di portare avanti la sua lotta, e l'attuale indipendenza, richiesta dell'indipendenza, è un po' il risultato del processo di ricerca di questa autonomia, che poi a un certo punto, davanti al muro che Madrid ha messo, si è trasformata dando voce e forza al movimento minoritario indipendentista. La cosa interessante, secondo me, che ho evidenziato sentendo professori di università interni catalani, che quindi cercano di dare una visione sia interna che però anche più ampia, è in realtà questo muro di Madrid è e questa indipendenza che ne è scaturita in realtà è un piano, diciamo. Di chi? Non in piano in senso siamo complottisti, ma il Partito Popolare, che non ha voti in Catalogna, zero, non ha praticamente voti, essendo al potere, chiudendo ad ogni possibilità di dialogo nella ricerca di un'autonomia maggiore, ma anzi rispondendo con restrizioni, per esempio nella scuola, nell'insegnamento del catalano. Anche la prima mossa che hanno fatto è stata di arrestare subito membri del Parlamento, già dall'inizio, quando venne fuori l'idea di fare il referendum, insomma, quindi muro per far esplodere questo dissenso in maniera anche non volutamente non controllata, per fare piazza pulita dei partiti invece di sinistra catalani, che sono nel Parlamento catalano. E quindi alle prossime elezioni l'idea sarebbe, una volta resi loro illegali, essere l'unico partito da votare, l'unico su cui fidarsi in Catalogna. Quindi questa è una delle narrazioni di questa professoressa che io ho sentito, catalana, che diceva che secondo lei alla fine dei conti questo era proprio... gli dicevano gli altri giornalisti, alla fine purtroppo è finita così. E lei ha fatto: no, guarda, è finita così perché hanno voluto che finisse così, secondo me. Infatti alla fine gli fanno: ma te senti spagnola? E lei ha fatto: no, io sono catalana, mi sentirò spagnola nel momento in cui la Spagna mi accetterà come catalana. Quindi questa anima, No, questa cosa qui io l'ho potuta riscontrare molto spesso, parlando con catalani, cioè che proprio dico: sono catalano, non sono spagnolo. Quindi c'è sempre stata, cioè non è per dire no, quello che stavi dicendo te appunto della narrazione economica, del vedere la Catalogna come cioè di vedere questa indipendenza come un distacco per motivi economici, non è assolutamente così. Cioè comunque dietro alla Catalogna c'è tutto un contesto storico molto ampio che parte anche poi con la repressione di Franco e perché la Catalogna comunque aveva appoggiato le forze repubblicane. Sì, no, cioè... poi esatto, esistono precedenti addirittura nel Medioevo, ma la stessa cosa è la dicano dei Baschi. Perché certo, bene o male Bilbao, questi sono posti che hanno una buona ricchezza, c'è un benessere abbastanza diffuso e assolutamente i baschi si sentono baschi, cioè c'è questa spinta anche lì all'indipendenza, è molto forte. Io sono andato e ho visto tantissimi cortei baschi che chiedevano l'indipendenza, e quindi appunto questa motivazione che danno di tipo economico mi fa anche pensare un po' male, perché poi vedendo quanto i nostri media sono collusi in qualche modo con l'Europa, l'Unione Europea e anche l'America, insomma, mi fa sempre pensare un po' come delle scuse che danno, cioè a prescindere poi da come uno la veda sul discorso dell'indipendenza della Catalogna o sul nazionalismo, però indubbiamente c'è un'evidente manipolazione dei fatti per cercare, certo, di far passare male queste cose a prescindere, no? Quindi, giungendo un po' alla conclusione del nostro ragionamento, dobbiamo sempre ricercare la doppia narrazione da tutti i punti di vista. Fondamentale, sempre. Anche fondamentale. Il riflare, anche qua, quadrupola volendo. Esattamente. Meglio, perché su questo argomento sono state dette veramente, negli ultimi tempi, tantissime cose, anche delle più disparate. Esatto. Le cose certe, non lo so, le cose certe, sicuramente si può dire che il popolo catalano ha reagito in modo molto... con una grossa presenza, questo sì. Questo probabilmente si può dire del popolo catalano, che è un popolo che non ci pensa due volte a scendere in strada e a organizzarsi, ad auto-organizzarsi, perché voglio dire, alla fine il referendum, abbiamo avuto un referendum in Italia settimana scorsa e nonostante, cioè appunto ci scappa da ridere, giusto? E quindi se noi fossimo... Lombardi se ne sono fottuti. Sì, fatto sta che era un po' diversa, però si molto tratta sempre di richieste di maggiore autonomia, di maggiore indipendenza. Però c'è una bella differenza fra quello che è successo in Lombardia e quello che è successo in Catalogna. Milioni di motivazioni, però sicuramente anche la tempra della popolazione, dei cittadini catalani, non si può certo paragonare, ecco, forse alla nostra, alla lombarda. Sicuramente no, ecco. Sicuramente però grande tempra, e sempre riguardante i grandi referendum, invece è la storia taciuta, tuttora viene solo accennata, e anche lì riportata al settore economico del Kurdistan. Kurdistan c'è stato il 26 settembre il referendum per dire sì, siamo indipendenti, chiaramente non riconosciuto a nessuno, perché come ben sappiamo il Kurdistan si trova all'interno di tre paesi differenti. Quattro paesi differenti. Il cellulare esplode. E anche lì ci sarebbe tanto da raccontare. E ci manca colui che ci raccontava e ci informava. È un po' che ci informava sul Kurdistan, che è in Colombia. In Colombia. Beh, sì, però è una storia che va tenuta davanti sempre in prima pagina, quella secondo me del Kurdistan, della tempra e dell'idea che si sta sviluppando, che stanno cercando, esatto, di sviluppare in una parte del Kurdistan. Esatto, bravo, anche lì ci vuole approfondimento, ci vuole tempo per approfondire, me ne rendo conto, però ci vuole approfondimento. Le grandi anime che vivono il Kurdistan e le differenti idee di Kurdistan, anche lì è molto interessante. Certo. Sì, comunque sono tutti casi da analizzare specificatamente. Si può dire che se guardiamo questi eventi, le notizie di richieste di indipendenza sembrano essere sempre di più. Ecco, davvero, come dicevi te, sembra che lo Stato-nazione non strida un po', ecco, non riesca più a soddisfare le esigenze delle popolazioni. Beh, è un dato di fatto, mi sembra ormai. Si può quasi dire un dato di fatto, visto che perfino nella solidissima Europa, ecco, questa cosa crea grandissime preoccupazioni in tutti i governi. No, assolutamente. Ma era un po' quello che cercavo di esprimere prima. Te forse l'hai detto in modo molto più articolato. Però anche il fatto del Kurdistan, cioè, appunto, si parlava di hacking, cioè loro stanno sperimentando un nuovo modello di democrazia dal basso e anche di tolleranza religiosa. Addirittura il Kurdistan ha fatto dei corridoi umanitari per gli yazidi, che vi inviterei, insomma, gli ascoltatori a cercare qualcosa sugli yazidi, compiti per casa, cercate sugli yazidi, perché comunque loro sono stati maltrattati da tutti gli yazidi. C'è stato un vero e proprio genocidio, da cristiani, da musulmani, ebrei, cioè tutti li hanno maltrattati, e gli unici sono stati i curdi, che hanno fatto questo corridoio umanitario e li hanno ospitati nei loro campi. Quindi l'ultimo è stato lo Stato Islamico, se non mi sbaglio, a continuare questo genocidio. Sì, ma infatti ormai è rimasta una comunità molto piccola, se non sbaglio circa 20.000, non vorrei dire una cosa assurda, però comunque stiamo parlando decine o poche centinaia di migliaia. Ebbene, quindi qual è l'unica soluzione? Andare a conquistare lo spazio, ragazzi, ci uniamo tutti per combattere la luna. Ci mettiamo su una sedia piena di fuochi d'artificio e partiamo alla conquista dell'universo. Terra, Stato unico. Vabbè, anzi, certo. Senza Stato. No, unica terra. Va bene. Madre, ok, Gea. Questa cazzata Gaia. Ci permette di Gaia. Staccare e cominciare a salutarci. Sì, dai, direi. Sì. Ricorderei l'indirizzo posta per infamate cose. Ecco, non lo sai, so. Posta ricorderei Wombat. Pagliaccio. Posta Wombat, @insiberia.com. net.net.net.arg punto bombato. Un sabotatore in regia. Esatto. Punto net, ve lo ricordiamo. Vi abbiamo detto il palinsesto, vi abbiamo detto cosa succede nella settimana. Cosa altro dobbiamo dirvi? Vi abbiamo detto cosa dovete approfondire. Forse possiamo dirvi ciao. Allora ci sentiamo lunedì prossimo, 16:30 qui su Fuoco alle Polveri, Radio Wombat. Grazie a tutti, buona serata. Ciao. Wombat. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento.